successiva avevo ricordato quel terribile facchino di Dublino, Irlanda, che si era dato al vino fin dall'adolescenza. E le bestemmie non si contavano più sulla sua bocca. Lo scandalo di Dublino, dai 12 ai 28 anni. Ma quel sabato, l'ultimo sabato di questi anni vergognosi, scandalosi, oh, segna la sua rinascita. Quello a 28 anni cerca un prete e lo trova. Stavano ormai chiudendo tutte le porte a una certa ora della notte e fece in tempo ad arrivare ad una chiesa dove il parroco stava proprio chiudendo i battenti. Un attimo, io non posso più vivere così come sono. Mi diceva, mi confessi, mi perdoni. 28 anni, con quelle due pecche addosso. Non so se ne avesse anche delle altre. Io ho letto diverse biografie. Sembra di no. Sembra che la lussuria o impurità non l'avesse neanche sfiorato. Sembra. Ma l'alcol, la droga di allora, la birra nera, ma le bestemmie, ma gli scandali. E questo ricomincia da capo. E prima che il confessore lo assolva, gli dice: Padre, mi permette di fare un giuramento qui davanti a lei, a Gesù Cristo? Che giuramento? Che non toccherò più vino per un mese. Il confessore ci pensa, poi dice: sì, mat talbo, per un mese. Non berrà più vino nella vita, perché passato il mese di astinenza dal vino e dall'alcol, va in cerca di quel prete, si inginocchia e dice: Padre, non ho assaggiato vino, neanche quando mi hanno portato di peso all'osteria i compagni per costringimi a bere. Tutto il mese mi permetta di fare questo giuramento che duri tutta la vita. Quel sacerdote lo guarda, lo scruta negli occhi e poi dice: sì. E per quel sì, noi tra poco avremo un santo sugli altari, un ubriacone che passa dall'osteria agli altari, dal peccato alla gloria più alta. Mat talbo. E le bestemmie? Come smetterà questo diabolico vizio? Le sue sorelle facevano le sarte e sul tavolo avevano sempre tanti spilli, gli spilli che adoperano i sarti per mettere un po' in forma il vestito tagliato. E una mattina, tornando al lavoro di Porto, era facchino di Porto, ne chiese un certo numero alle sorelle e si portò dietro questi spilli. Quando gli scappava di bocca una bestemmia, ne cavava uno dal risvolto della sua tuta di facchino e lo piantava nella pelle. Gli scappava un'altra bestemmia, un altro spillo piantato nelle carni. Allora, quando si accorse qualche compagno di mala vita, gli passava in malo modo un bagaglio, un baule, una cassa, un peso, apposta per metterlo in tentazione di bestemmiare. E questo, stringendosi le labbra fra i denti, cavava un altro spillo di quelle che si era portato via da sua sorella e finalmente, uno spillo dopo l'altro, la bestemmia non apparve più sulla sua bocca. Basta, basta vino, basta alcol, basta droghe, basta, basta bestemmie. E poi la riparazione, la sua condotta limpida, trasparente. Il facchino santo è morto, dirà la gente. E che morte ha fatto Mat Talbo? Era l'ora di messa, la messa prima della domenica nella sua parrocchia. Ormai aveva trovato il gusto della preghiera e quando poteva partecipava anche a più di una messa, arrivando sempre per primo. Arriva agli ultimi scalini, davanti alla sua chiesa parrocchiale, c'era una scalinata. Arriva all'ultimo scalino, sta per entrare e si accascia sull'ultimo scalino. C'è qualche buona persona che viene alla messa prima, c'è proprio una signora che si accosta, lo riconosci, Matt, Matt! Apre gli occhi, sorride e quella signora dice, Matt, stai per entrare in paradiso se vedo bene. E Matt muore. Qualche giorno dopo vengono organizzati i funerali a Dublino, Irlanda. Vengono contati 10.000 persone ai funerali di quello scandalo del porto che si è convertito. Ha ricominciato da capo, da zero, diremmo anche da sotto zero. Ma a quali altezze è arrivato? Quando hanno cercato di vestirlo, hanno chiamato persone a vedere. Aveva la carne tutta circondata di catenelle di ferro. Nessuno si era mai accorto che facesse di queste penitenze. Ma dove trovava il coraggio di fare queste penitenze? Il ricordo del passato triste. Quel ricordo non lo abbandonava mai, ma non lo faceva triste. Lo armava di penitenza. Voleva espiare quegli scandali. E quando le persone pietose lo rivestirono come poterono per i funerali, rimasero stupite di vedere questo corpo fasciato di strumenti di penitenza.